là, mi toglie il simulacro di vedersi col bel grifone. Acquistati ad affetto e d'amore, amore, fede, inviolabil giuro. Ah, sarà adesso, è vana quella fede. Oh, no, si audace, e argigliano, e torni importuno a tentar la sofferenza di questo cor. E forse il nato ardire, sconsigliato perdon, farò pentirti. Non ti adirare. Credimi che sinceri gli accenti corrispondono al cuore. Ad ogni amore leggo il fronte appunto, ad ogni evento questa si volge, e la vezzosa ad ogni sospiro. Che parli? Amore, tu ben lo sai, la verità è sovente. Sì, bello di sospiro, io lo so per prova, ti fa giurare eterna fede, cara. A me poc'anzi ed ora a lui, fra poco ad un altro amator. Oh, fiamorosa, fedelissimo amore. E quei menzogne fellosa di me, colpa, menzogne. Nel giardino, esser discreto voglio ne più questa rossiera. E tu insoffri, ti grida, un grande amore ha un gran sospetto, e amor lo so.